Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Beh, in un momento come questo gli scioperi non risolvono nulla, insomma, perché le attività produttive sono talmente basse che gli scioperi non fanno certamente dei grandi danni. Questo è il pensiero, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, del presidente di Confindustria Squinzi. Essendo la produzione così bassa in questo momento, dice, questo sciopero generale annunciato, avete sentito che sono compattate CGL e UIL, non farà tutto sommato dei grandi danni visto che la produzione è così bassa. Questo è il suo pensiero, poi lo ritroveremo ancora nell'argomento, lo sciopero generale, che approfondiremo con altri ospiti più tardi. Parleremo anche di una cosa estremamente importante, il processo su Ethernet, sulle morti, oltre 2.000 in Italia accertate a causa dell'amianto, e con la richiesta oggi del procuratore generale di annullamento della sentenza di condanna che c'era stata nel processo d'appello, perché il reato ormai deve essere prescritto. È una cosa che ha creato naturalmente dolore e smarrimento e amarezza tra i familiari delle vittime, e poi vedremo di ricostruire la storia e capiremo se già entro stasera la sentenza della Cassazione potrebbe arrivare, anziché, come visto da alcune media, da alcune agenzie, la settimana prossima. Potrebbe essere che succeda stasera. Insomma, molti temi. Voi siete sempre liberi naturalmente di esprimere le vostre opinioni sui temi del giorno o con gli sms al 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, o sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Potete aderire in numero incommensurabile e poi scrivere le vostre opinioni. Ma adesso vi racconto la giornata. Sciopero generale CGL UIL insieme il 12 dicembre, la CISL si sfila e la leader Furlan dice non bisogna fermare il paese. Processo Ethernet, il procuratore generale della Cassazione chiede di dichiarare il reato prescritto e di annullare la condanna del magnate Smidaini. Strage di Bologna, il Tribunale Civile chiede che Mambro e Fioravanti paghino 2 miliardi di risarcimento ai familiari delle vittime. Rai, il CDA vota il ricorso contro il governo sui tagli, scoppia la polemica, Tudini si dimette, il PD attacca l'attentato a Gerusalemme, l'ira di Israele, distruggete le case dei terroristi. Femminicidi, il 2013 è stato l'anno nero per le donne, un delitto ogni 2 giorni. Partiamo quindi dallo sciopero generale, dalle varie polemiche di cui parleremo poi dopo. Adesso lo riassumiamo. Sarà il 12 dicembre, non più il 5, lo sciopero contro la legge di stabilità e il Jobs Act. Alla mobilitazione aderiscono CGL e UIL, ma non la CISL. Divisi sullo sciopero generale contro la legge di stabilità e lo Jobs Act, uniti sullo stop del pubblico impiego, CGL e UIL scenderanno in piazza il 12 dicembre e non più il 5, data già decisa dalla CGL che tante polemiche aveva scatenato per via del Ponte Lungo, così Susanna Camusso. Registrando questa importante convergenza abbiamo convenuto di fare lo sciopero generale di una giornata con manifestazioni territoriali il 12 dicembre. La CISL si smarca che non aderisce allo sciopero generale mentre annuncia lo stop al pubblico impiego contro il blocco dei contratti per il 1° dicembre. Così Anna Maria Furlan. La CISL conferma la posizione che ha espresso un mese fa, e cioè che non ritiene che lo sciopero generale oggi sia lo strumento per arrivare agli obiettivi che noi ci diamo. Intanto è scontro tra CGL e UIL da una parte e il governo dall'altra per la decisione del ministro del lavoro Poletti dopo l'annuncio dello sciopero di non intervenire al congresso UIL. Penso che per quello che riguarda la legge delega sul lavoro e la legge di stabilità non ci siano motivazioni per una decisione importante e pesante come quella di indire uno sciopero. Critico anche il presidente di Confindustria Squinzi. In un momento come questo, dice, gli scioperi non risolvono nulla. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E c'è da aggiungere che dopo lo sciopero del 1° dicembre indetto dalle categorie del pubblico impiego della CISL, quindi il 1° dicembre ci sarà sciopero della CISL, ma per quanto riguarda il pubblico impiego, il comitato esecutivo del sindacato ha deciso di proseguire poi la mobilitazione mettendo in campo 3 manifestazioni in 3 città, il 2, il 3 e il 4 dicembre, quindi sarebbero 4 giorni di seguito, rispettivamente a Firenze, Napoli e Milano. Al centro delle richieste di politica economica e sociale c'è appunto il settore pubblico, e sulla data c'è la reazione negativa dei familiari, cioè sul 12 dicembre la reazione negativa dei familiari delle vittime della strage strage di Piazza Fontana. L'abbiamo presa molto male perché il 12 dicembre dicono per noi l'anniversario appunto della strage di Piazza Fontana. Così ha detto Carlo Arnoldi, presidente dei familiari delle vittime della strage alla Banca Nazionale del Lavoro di Milano, della quale ricorrono proprio il 12 dicembre i 45 anni. Sentiamo Arnoldi a Effetto Giorno. L'abbiamo preso in un modo molto male perché il 12 dicembre per noi, come lei ha già anticipato, è il 45 anniversario della strage di Piazza Fontana. Fermare il paese proprio quel giorno per noi crea delle difficoltà, perché noi da mesi che lavoriamo per preparare l'anniversario, per preparare le manifestazioni. Di solito facciamo una manifestazione il giorno prima, niente, manca quel giorno lì, e quindi avremo delle difficoltà perché tanti arrivano da fuori. Io per esempio non abito a Milano, avrò dei problemi da raggiungere, e la sera abbiamo un concerto, insomma, cioè, per noi crea dei grossi problemi. Intanto sul Jobs Act, cioè sulla riforma del lavoro, la maggioranza si è ricompattata. L'aula di Montecitorio inizierà venerdì l'esame della legge delega sul lavoro. Il Jobs Act oggi è stato licenziato dalla Commissione Lavoro al termine di una riunione disertata per protesta dalle opposizioni. Sul testo la maggioranza sembra essersi ricompattata dopo l'intesa raggiunta sull'emendamento del governo che contiene le novità sull'articolo 18. Il via libera finale di Montecitorio sul Jobs Act è atteso entro il 26 novembre. In caso di ritardi non è escluso il ricorso alla fiducia da parte dell'esecutivo, che in queste ore è costretto a fare i conti anche con i malumori nella maggioranza sulla legge di stabilità. La Commissione Bilancio della Camera oggi ha respinto l'emendamento presentato dalla minoranza del PD che proponeva di rivedere il bonus da 80 euro favorendo le fasce di reddito più basse. La platea dei beneficiari del bonus non verrà modificata, ha fatto sapere il viceministro all'economia Morando, che ha invece aperto a modifiche del bonus bebè per aiutare i minori che vivono in condizioni di povertà. Il ministro della cultura Franceschini ha invece presentato un emendamento per abbassare l'IVA sugli ebook al 4%, equiparandola a quella dei libri tradizionali. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E vi dicevo, una notizia di primissimo piano oggi riguarda il processo Eternit, con il colpo di scena che è arrivato in giornata. Per il procuratore generale della Cassazione la condanna è da annullare. Annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, questa è la richiesta della Procura Generale presso la Corte di Cassazione nell'udienza di questa mattina per il processo Eternit e le morti per amianto. I giudici del Tribunale di Torino il 3 giugno 2013 avevano condannato in appello a 18 anni per il reato di disastro ambientale il magnate svizzero Schmidani. Oggi il procuratore Francesco Iacoviello invece ha chiesto l'annullamento della sentenza, un passaggio che potrebbe sancire la fine del processo Eternit senza definire alcun responsabile. La sentenza dei giudici comunque attesa per la prossima settimana. Grande amarezza fra i familiari delle vittime in presidio davanti alla sede della Cassazione. Le vittime per patologie collegate all'amianto nel periodo individuato dall'inchiesta della Procura di Torino sotto il coordinamento di Raffaele Guariniello sono state 3.000. Nella requisitoria Iacoviello ha parlato apertamente di responsabilità dell'imputato per le condotte a lui attribuite, ma la prescrizione è un atto di diritto, sebbene, aggiunto il procuratore, possa non rispondere a esigenze di giustizia. Sul banco degli imputati è rimasto soltanto Schmidani dopo la morte a 92 anni del barone belga del Cartier, condannato in primo grado. La sentenza aveva riconosciuto le responsabilità penali dei vertici di Eternit non solo per i siti piemontesi di Casale Monferrato e Cavagnolo, ma anche per Bagnoli e per Rubiera. I giudici, oltre alla condanna, stabilirono risarcimenti danni per decine di milioni di euro. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. E passiamo a un'altra vicenda. Il Tribunale Civile di Bologna condanna i due ex terroristi neri, Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, a risarcire lo Stato per la strage del 2 agosto 1980. Per la strage alla stazione di Bologna lo Stato ora presenta il conto perché la gravità di quel fatto, scrive un giudice, è senza pari e i danni sono permanenti. Così, 34 anni dopo il peggior attentato della storia della Repubblica, Francesca Mambro e Valerio Fioravanti sono condannati a risarcire Palazzo Chigi e Ministero dell'Interno con 2 miliardi e 134 milioni. Furono loro, secondo le sentenze definitive, furono i due terroristi NAR, i responsabili della bomba nella sala d'attesa che uccise 85 persone e ne ferì 200, e ora sono per questo loro, secondo un giudice civile, a dover pagare i danni per lo sgomento e per quel senso di insicurezza, si legge nella sentenza, lasciato nel paese. Il nostro pensiero si conoscerà solo con l'appello, rispondono attraverso i legali i due ex terroristi già da molti anni fuori dal carcere. Il pensiero dei familiari delle vittime invece è già noto, è finito, commenta Paolo Bolognesi, il patto del silenzio. Dall'idea proprio che certi patti di copertura nei confronti di questi due personaggi siano finiti. Con la direttiva Renzi mezzi, ci sarebbe la possibilità di depositare finalmente una serie di documenti che comprovano determinate collusioni. Ci sono delle manine che fanno in modo che i documenti non vengano versati. E questo sarebbe invece il vero risarcimento 34 anni dopo la strage. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca. A Milano è stato condannato a 10 anni di reclusione l'uomo accusato di omicidio per aver ucciso un tassista per una precedenza negata. Stava attraversando sulle strisce pedonali con la compagna, incinta di 9 mesi, in pieno centro a Milano. Il taxi non si era fermato per farli passare, rischiando di investirli. Sceso dall'auto, Davide Guglielmo Righi, consulente informatico di 49 anni, aveva scagliato contro il tassista una confezione di bottiglie d'acqua. L'uomo, infatti, avrebbe chiesto alla coppia il risarcimento dello specchietto andato in frantumi. Il tassista, Alfredo Famoso, 68 anni, era caduto a terra sbattendo la testa. 2 giorni di coma, poi la morte. La Corte d'Assise di Milano lo ha riconosciuto colpevole di omicidio preterintenzionale e lo ha condannato a 10 anni di reclusione, il minimo della pena prevista per questo reato. Una pena troppo bassa per i familiari della vittima. Ora Davide Guglielmo Righi dovrà risarcire la moglie del tassista con 100.000 euro, i figli con 80.000 euro a testa, i fratelli con 30.000 euro a testa. 12.000 euro di risarcimento vanno invece alla ASL di Milano. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24. Vedo anche una notizia appena arrivata che riguarda il divorzio breve. La Commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera al disegno di legge sul divorzio breve, che contiene anche la norma sul divorzio immediato, proprio immediato. Ma in chiusura parliamo di calcio per alleggerire, fa discutere l'allarme del CT della Nazionale Antonio Conte. Conte il censore ne ha per tutti. Soli contro il mondo, nessuno aiuta Azzurra, non si possono chiedere miracoli in queste disastrate condizioni. Ce l'ha con tutti, dai club alla pubblica opinione, i primi che non concedono spazio alla nazionale, la seconda che preme domandando risultati. Niente di nuovo. Cose che sapevano e dicevano Prandelli e quelli prima di lui, il Lippi mondiale compreso. Cose che Antonio conosceva bene quando allenava la Juventus meno di 100 giorni fa e quando firmava tra 1000 sorrisi il contratto più ricco nella storia dei nostri CT. Che quel contratto metta pressione addosso è normale, che non possa essere garanzia di risultato lo è altrettanto, e l'impressione che Conte faccia l'elenco dei problemi per mettere un filo le mani avanti esiste. Che poi sia tutto vero è un altro discorso, compreso il fatto che il tempo per lavorare sulla squadra è pochissimo, triste destino di ogni commissario tecnico, compreso il tedesco e campione del mondo. Nessuno ci ama, dice ancora lo sconsolato Antonio, da capire chi sia questo nessuno. Certo non gli stadi che la sua nazionale riesce, forse miracolosamente, a riempire. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. Bene, il quadro della giornata è fatto a questo punto, come sapete, come sempre poi tra poco comincerò ad approfondire alcuni dei temi centrali di oggi con diversi ospiti. Parleremo, vi dicevo, anche del processo all'Eternit, e vedo già un messaggio di Lidia d'Alessandria al 349-238-6666 che dice: la giustizia italiana è veramente ingiusta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci qui, ed è arrivata proprio adesso, si pensava che sarebbe arrivata nei prossimi giorni, la sentenza della Cassazione sul processo Eternit. Vi ricordo che si tratta di un processo, il maxi processo, il processo del secolo è stato chiamato, per la morte di circa 2000 persone uccise dall'amianto, soprattutto in Piemonte ma in vari stabilimenti di Eternit, morti per amianto. Il procuratore generale oggi aveva chiesto la prescrizione del reato, l'annullamento della sentenza per il magnate dell'Eternit. Ebbene, è già arrivata la sentenza della Cassazione ed è questa che sicuramente farà molto discutere. La Cassazione ha accolto la richiesta del procuratore generale, annullato senza rinvio, dichiarando prescritto il reato, la sentenza di condanna per il magnate svizzero Stefano Smidaini nel maxi processo Eternit. Sono stati annullati anche i risarcimenti per le vittime, la prescrizione è maturata al termine del primo grado. Avevo sentito nel pomeriggio, e ve l'avrei fatta sentire, una telefonata con il coordinatore dei familiari delle vittime, Bruno Pesce. A questo punto però non ha più un valore, perché nel pomeriggio aveva detto che era ancora speranzoso, che non si sarebbe accolta questa richiesta del procuratore generale, che non ci sarebbe stato l'annullamento della sentenza, è stato anche annullato il risarcimento per le vittime. Insomma, cosa dire? Michele Brambilla, vice direttore della Stampa, tu che hai seguito molto, hai scritto anche un libro sulla vicenda. Ma cosa si può dire? Può darsi che da un punto di vista tecnico la prescrizione sia ineccepibile, ma siamo esseri umani e pensiamo non esista soltanto la tecnica del diritto, esiste anche la storia. La storia è quella di una fabbrica che ha provocato migliaia di morti e li ha provocati nonostante la scienza avesse più volte avvertito della pericolosità dell'amianto. Quindi quello che resta è la sensazione, ahimè, di una grandissima beffa. Oddio, sarebbe stata una beffa anche in caso di condanna, perché vengono processati soltanto gli ultimi due proprietari della Eternit e per giunta uno di questi due è morto l'anno scorso, quindi ne era rimasto uno solo. E poi anche in caso di condanna questo non sarebbe stato messo in carcere, perché vive all'estero, non avrebbe neanche pagato i risarcimenti, perché è troppo complicato per la legge farli arrivare dall'estero. Però perlomeno ci sarebbe stata, come dire, una dichiarazione formale di colpa grave per quello che è stato fatto in quella e in altre fabbriche. Così invece la prescrizione dà purtroppo l'idea di un colpo di spugna, di un abbiamo scherzato, e credo che sia un po' anche negativo per il futuro, per tutte le altre situazioni di pericolosità che ci possono essere in tante fabbriche, no? Guarda, proprio a questo proposito, Michele Brambilla, c'era stata oggi una nota del WWF, che tra l'altro è parte civile in questo processo sin dal dicembre 2009, che già aveva detto oggi, ancora prima della sentenza della Cassazione, dice: con questo sono a rischio i processi, tutti gli altri processi per disastro ambientale, perché dicevano la richiesta del procuratore generale fatta davanti alla Corte di Cassazione, eccetera, eccetera, è un pericolosissimo cavallo di Troia che rischia di inficiare tutti i processi, i prossimi processi che si faranno in Italia per disastro ambientale, di vanificare decenni di sforzi compiuti nella legislazione ambientale per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini. Questo l'aveva detto ancora prima di questa sentenza, oggi con la richiesta, no? Sì, guardi, io mi rendo conto che dico una assoluta banalità e forse la dico con molta faciloneria, però è sbagliato dire che resta un po' la sensazione che chi può la sfanga sempre, detto molto banalmente, no? È una multinazionale che viene processata per una cosa così grave e alla fine se la cava. Ripeto, non voglio alimentare populismi che non mi piacciono, però purtroppo una prescrizione è destinata a diffondere fra la gente l'idea che chi può se la cava sempre e che pagano sempre le persone più deboli. Purtroppo questo temo che sia il brutto strascico che rimarrà da questa sentenza, che, ripeto, da un punto di vista tecnico sarà anche ineccepibile, non discuto, però non possiamo neanche discutere della realtà dei fatti, che è quella di una lavorazione che da un certo punto in poi era chiaramente nociva e che è stata fatta proseguire come se nulla fosse. Lo ricordiamo che i quattro stabilimenti dove si produceva Eternit amianto in Italia erano a Casal Monferrato, soprattutto in Piemonte, a Cavagnolo in provincia di Torino, a Rubiera in provincia di Reggio Emilia e Bagnoli, Napoli. Poi mi diceva oggi Bruno Pesce, vi dicevo la telefonata che avevo fatto con il coordinatore dell'Associazione delle Vittime dell'Amianto, mi diceva che in realtà poi l'inquinamento continua negli anni, perché poi tutti i rifiuti tossici sono stati seppelliti in discariche abusive, quindi immaginatevi, poi altri, magari persone comuni, hanno preso quei materiali per costruirsi la stradicciola, mi diceva, o altre strutture, per cui potete immaginare quante volte, mi diceva, quella polvere di amianto si è rialzata da dove era ed è entrata, è stata respirata, è andata ad ammalare i polmoni di tante persone. Di morti accertate, almeno in questo processo, finché è durato, si è parlato di oltre 2000 in queste fabbriche, però c'è tutto, come possiamo chiamare, tutto il contorno anche, no? Michele Brambilla, cioè tu... Certo, anche perché solo a Casale si calcola che ci siano 50 nuovi casi di mesotelioma pleurico all'anno. La malattia, lo dico per chi non lo sapesse, ha un'incubazione molto lunga, per cui anche 30 anni, anche quindi... 30 anni o anche 40, dice qualcuno, per cui magari gente che ha respirato questa polvere 30 anni fa. E poi c'è un altro problema che in parte tu hai già detto, cioè quello dell'amianto che è tuttora in giro, perché la legge del 92 vieta l'estrazione, la commercializzazione e l'utilizzo dell'amianto, ma non impone a chi ha setti in eternit o altri studi in amianto di rimuoverlo. Per cui solo a Casale Monferrato, se uno ci fa un giro, vede che la metà dei tetti sono ancora in eternit, perché poi non tutti li rimuovono, perché c'è una specie di fatalismo, ma vabbè, ma non tutti si ammalano, e certamente è vero, per fortuna che non tutti si ammalano, ma insomma c'è ancora in giro un sacco di amianto, sia nelle queste tettoie ondulate che tutti conosciamo, sia nei sottotetti, nei campetti di bocce, di calcio, nei vialetti, sotto i giardini. E quindi questa maledettissima polvere rischia di uccidere ancora a lungo. Ora, che tutto questo finisca con una prescrizione, io credo che sia purtroppo un bruttissimo segnale. Chiedo agli ascoltatori se vogliono continuare a commentare al 349-238-6666 o sulla pagina Facebook di Effetto Note, ma quello che c'è ulteriormente di importante da dire, Michele Brambilla, è che questa vicenda tormentatissima, tra l'altro, non riguarda soltanto gli stabilimenti che dicevo, tutto l'indotto, ecco, volevo dire ironicamente, no? L'indotto, cioè il fatto che poi queste polveri abbiano continuato a diffondersi nelle discariche, nelle strutture che poi sono state costruite in seguito, ma è una vicenda che riguarda tutto il mondo, perché la fibra killer, come è stata definita quella dell'amianto, è ancora legale in molti paesi del mondo dove di amianto si continua a morire, quindi ha avuto un risalto internazionale, no? Tra l'altro, questa vicenda apparentemente italiana. Sì, ha avuto un risalto dove ci sono mezzi di comunicazione che permettono questo risalto. In altri paesi, ahimè, c'è lo stesso silenzio che c'era in Italia 50 anni fa, cioè in Brasile, in India, nei posti più poveri del mondo ci sono fabbriche che fanno le stesse cose che si facevano a Casale Monferrato nel 1907, quando è stata aperta la fabbrica. Certo, si farà con qualche cautela e qualche progresso tecnico, ma di fatto si lavora ancora l'amianto nella ignoranza quasi totale delle persone che ci lavorano. Mettiamoci così in mente quale può essere il grado di informazione che c'è in certi angoli particolarmente poveri del mondo, no? Ci sono un sacco di fabbriche che continuano a produrre le tettoie in eternit e altre strutture in amianto, e forse tra 50 anni i processi saranno celebrati là, e magari qualcuno ricorderà che in fondo in Italia tutto è finito in nulla. Ti leggo alcuni messaggi un po' per sentire anche cosa pensano le persone. Dice un ascoltatore: la sentenza italiana è di segno sempre diverso, mirano a destabilizzare scientemente il senso profondo della giustizia di un popolo. E poi processo amianto eternit, scrive un altro, la Cassazione annulla, vabbè, ripete la notizia. David: cara Roberta, chiedi chi ha fatto le leggi sulla riduzione della prescrizione. E poi Enzo 64: da oggi le aziende sanno che non pagheranno niente per i guai che combineranno. Auguri a tutti. Un altro messaggio dice: la prescrizione è iniqua, in certi casi come questo è criminale. E ancora Tina: dica al signore che ciò che sta dicendo non è affatto banale, perché è ciò che sicuramente pensano milioni di persone, quello che dicevi prima tu. Valerio: ma forse non sarebbe il caso di eliminare o allungare la prescrizione per evitare porcate simili? Ma adesso qua io non so se tecnicamente la prescrizione è scattata perché sono stati diminuiti i tempi, o se, come mi pare di aver capito, perché il procuratore generale e poi la corte hanno ritenuto che questo reato, il disastro doloso, non è, il disastro ambientale, non è sostenuto dal diritto, come ha detto. Penso che sia più questo, più questa cosa qui, sì. Però sta di fatto che, fatta salva la buona fede dei giudici, eccetera, ma io vorrei così far notare un paradosso. Io ho conosciuto questa signora che si chiama Romana Blasotti Pavesi, che è la presidente dell'associazione Vittime dell'amianto, che è un simbolo, adesso ha più di 80 anni. Questa signora ha perso il marito, la sorella, la figlia e due nipoti. Ora, poche settimane fa, questa signora ha avuto dallo Stato italiano il titolo di commendatore. La medaglia d'oro ha avuto anche, se non sbaglio. Sì. E questo è lo stesso Stato che fa commendatore una persona che testimonia questa battaglia come presidente della FEVA, che è l'associazione delle familiari vittime dell'amianto, è lo stesso Stato che poi dice, e qua cito testualmente il procuratore generale, dice che tra diritto e giustizia un giudice deve scegliere il diritto. Quindi deve scegliere sostanzialmente un tecnicismo, ma sarà anche, ripeto, correttissimo dal punto di vista formale. Credo che però ci si possa riconoscere il diritto di criticare una sentenza. Arrivano tanti altri messaggi, però oggi avevo chiesto anche a Bruno Pesce, sempre il coordinatore dell'Associazione Famiglie delle Vittime, e se malauguratamente, dicevo oggi pomeriggio, dovesse arrivare una sentenza che va contro il vostro, quello che ritenete, il vostro senso di giustizia, cosa fareste? Parlava anche della Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, adesso non so quale sarà il seguito, comunque insomma poi vedremo un po' anche le motivazioni della sentenza e quello che seguirà. Vedo un'altra agenzia in questi momenti, in questi istanti, riguarda sempre appunto il processo Eternit, con la sentenza della Cassazione che ha dichiarato la prescrizione e ha cancellato la condanna al magnate svizzero Schmidaini, sfuma anche la possibilità per i familiari delle vittime e per la comunità locale di ottenere i risarcimenti. Questo in breve era già nell'agenzia di prima, però detta così mi sembra un po' una follia, ma bisogna rispettare le sentenze, si dice. Bisogna rispettare le sentenze e credo che ci sia il diritto di criticarle. Giustamente, ci prendiamo questo diritto. Michele Brambilla, io ti ringrazio e ti saluto. Grazie a voi. Buon lavoro. Buonasera. Ciao Michele. Grazie. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, ve le riassumo brevemente le notizie perché poi ritorniamo su quella principale di oggi, sciopero generale CGIL UIL insieme il 12 dicembre, la CISL si smarca e la leader Furlan dice non bisogna fermare il paese. Processo Eternit, la Cassazione ha annullato senza rinvio, dichiarandolo prescritto, il reato che aveva condannato il magnate Schmidaini per gli oltre 2000 morti di amianto, quindi ha annullato la sentenza, il reato è prescritto. Strage di Bologna, il Tribunale Civile chiede che Mambro e Fioravanti paghino 2 miliardi di risarcimento allo Stato per la strage di Bologna. E poi l'attentato a Gerusalemme, l'ira di Israele, distruggete le case dei terroristi e i femminicidi. Il rapporto Eures dice che il 2013 è stato l'anno nero per le donne. E ritorniamo brevemente sulla notizia che è arrivata pochi istanti fa, ne abbiamo parlato, della Cassazione che ha annullato senza rinvio, dichiarando prescritto il reato, la sentenza di condanna per il magnate svizzero Schmidaini nel processo Eternit. Sono stati annullati anche i risarcimenti per le vittime e abbiamo raggiunto uno degli avvocati dell'Associazione Familiari delle Vittime, Paolo Lidolm. Buonasera. Buonasera, buonasera. Preciso, non sono avvocato, io sono un membro dell'associazione e avendo una laurea in giurisprudenza diciamo che mi occupo di questi temi. Della parte giuridica. Mi faccia un commento su questa cosa di cui abbiamo parlato a lungo adesso, ma mi pare che sia... Direi che ogni commento è superfluo, nel senso che è una cosa assolutamente sconvolgente, francamente del tutto inaspettata. Io tra l'altro l'ho scoperto da voi, nel senso che mi sono purtroppo dovuto allontanare da Roma, avevo già sentito la richiesta, ma fino all'ultimo non volevo credere che si sarebbe seguita questa strada, perché è una scelta assolutamente demenziale di fronte a una storia così, che vede persone che ancora oggi muoiono al ritmo di 50-60 l'anno. Dire che tutto questo è prescritto quando in realtà sappiamo che l'apice non è ancora arrivato e sarà solo tra 15 anni è una cosa paradossale, assurda e che ci fa fare davvero una brutta figura agli occhi del mondo. Stavo guardando anche la reazione, vediamo se la ritrovo, delle vittime in tribunale, vediamo se comunque gridavano vergogna, vergogna, eccoli qua, si sono messi a urlare protestando, immaginiamo il dolore e l'amarezza. La decisione della prima sezione penale della Cassazione, che ha dato il colpo di spugna al processo Eternit, ha suscitato le proteste dei numerosi familiari delle vittime dell'amianto presenti nell'aula magna. Vergogna, vergogna, hanno detto in tanti urlando subito dopo la lettura del verdetto. Certo, assolutamente, consideriamo che è una cosa che viene dopo 5 anni di lotta, di sforzi per portare avanti questo processo, ciascuno di loro e anch'io purtroppo, tutti abbiamo perso qualcuno per l'amianto, e pensare di fare tutta questa strada per poi arrivare così a un giudice che ti dica è troppo tardi, quando in realtà ovviamente non è troppo tardi, perché per fare solo il mio esempio, io ho perso mia madre nel 2008, è francamente sconvolgente. Dica una cosa, Paolo Lidolman, in definitiva, in chiusura, quale sarà il vostro, capisco che sia così a caldo, difficile pensare, il vostro prossimo passo? Noi ci riorganizzeremo subito, ricominceremo fin da subito a lottare, non ho ancora parlato con gli altri membri dell'associazione, ma sono sicuro che sia anche la loro volontà, peraltro so che insomma la procura di Torino stava già pensando a un Ethernet bis per cui c'era già stata una visita di conclusione delle indagini, e se il motivo è la prescrizione allora si farà un altro processo in cui questa volta verranno contestati gli omicidi, almeno quelli si spera, non ci sarà un discorso di prescrizione perché ovviamente si consumano nel momento in cui si verifica la morte, e a quel punto vedremo se finalmente in questo paese si può avere un minimo di giustizia. Grazie Paolo Lidolm. Grazie a voi. Grazie intanto. Grazie. E cambiamo argomento con il vice direttore del Sole 24 Ore, Fabrizio Forché. Ciao Fabrizio. Ciao, ciao. Hai sentito questa notizia? Noi adesso parleremo. No, mi hanno ora collegato. Ecco, parleremo di ciò perché è arrivata proprio poco fa e ne abbiamo parlato proprio in presa diretta con l'ospite che avevo prima. Parliamo invece dello sciopero del 12 dicembre con la CGIL, che è riuscita ad avere anche il consenso e l'assenso della UIL, saranno insieme il 12 dicembre per scioperare contro il governo sulla legge di stabilità, sul Jobs Act e per i contratti pubblici. La CISL, dicevamo all'inizio, si sfila, anche se la segretaria Furlan ha detto in realtà non ci siamo sfilati, non abbiamo mai preso in considerazione di fare lo sciopero generale perché dice non serve bloccare il paese, ma proclama comunque un fermo per il settore pubblico il 1° dicembre, poi anche il 2, il 3, il 4 in varie città. E vi faccio sentire un passaggio della leader della CGIL Camusso. Abbiamo discusso con CISL e UIL, preso positivamente visione del fatto che la UIL ha deciso nel suo esecutivo di proclamare uno sciopero generale sui temi della legge di stabilità, del Job Act, dei temi che abbiamo aperto con il governo, e registrando questa importante convergenza abbiamo convenuto di fare lo sciopero generale di una giornata con manifestazioni territoriali il 12 dicembre. E poi sentiamo anche Squinzi, presidente di Confindustria, perché da una parte l'opposizione sociale alle misure del governo un po' man mano sembra che cresca, intanto le imprese stanno un po' a guardare alla finestra, nel senso che sono forti di una legge di stabilità che le premia sul versante dell'IRAP, di un Jobs Act che potrebbe concedere loro procedure più snelle, più facili per licenziare. Sentiamo però cosa ha detto Squinzi. Cioè, in un momento come questo gli scioperi non risolvono nulla, insomma, perché le attività produttive sono talmente basse che gli scioperi non fanno certamente dei grandi danni. E Civati stasera ha detto, durante la presentazione di un libro, mi inquieta la figura mitologica di Squinzi. Dice, che cosa ti ricorda questa Squinzi, Fabrizio Forché? Secondo te cosa potrebbe essere? No, non ho proprio idea sinceramente a cosa allude Civati. Renzi più Squinzi, dice, io al momento sono preoccupato dell'emergere di un nuovo personaggio mitologico nel panorama italiano, lo Squinzi, incrocio tra Squinzi e Renzi, perché dice trovo grave che Squinzi dica scioperate pure, tanto abbiamo pure poche commesse e non vi paghiamo la giornata. E dice per quanto riguarda il Jobs Act, l'operazione politica per poter dire che in Italia si può licenziare liberamente. Allora, a me sembra che questi scioperi siano soltanto il tentativo, come dire, di battere un colpo e dire ci siamo davanti al paese, battere il colpo da parte di leader sindacali che evidentemente hanno uno spazio che si è andato via via restringendo perché Renzi ha ristretto fortemente il loro spazio. Mi sembra la posizione della CISL, mi sembra su una linea di maggiore realismo e di maggiore confronto con il governo sui punti della legge di stabilità di Job Act che vanno cambiati secondo una prospettiva che può essere quella del sindacato. Arrivare a uno sciopero generale su il Job Act e sulla legge di stabilità, io francamente non riesco davvero a capire su cosa. Il Job Act dà facoltà di licenziare, bah. A me sembra che nel Job Act ci sono tante cose che sono politiche attive per il lavoro, contratto a tutele crescenti, non mi sembra che c'è un attacco al mondo del lavoro, non mi sembra che c'è una libertà di licenziare, l'intervento sull'articolo 18 è molto limitato, fin anche deludente dal punto di vista delle imprese. Fabrizio, ti faccio sentire, scusami, ieri avevo Cesare Damiano del PD e della minoranza, tra l'altro PD, e presidente della Commissione Lavoro della Camera, che invece si diceva molto soddisfatto perché sa che nelle ultime ore si è ricompattato il PD e insieme al nuovo centrodestra, quindi la maggioranza sul Jobs Act. Faccio sentire un passaggio di ieri. Ha vinto, come si dice, una capacità di mediazione e di compromesso, hanno vinto i fatti. Poi se il nuovo centrodestra il lunedì è d'accordo, il martedì è in disaccordo, il mercoledì di nuovo d'accordo, sono fatti loro, nel senso che noi abbiamo mantenuto un atteggiamento lineare, abbiamo lavorato per impedire che si approvasse il testo del Senato con la fiducia alla Camera, sarebbe stato, come si dice, mettere sotto scacco il Parlamento, quindi abbiamo già fatto, mal contati, una 25 emendamenti al testo del Senato, quindi c'è un intervento abbastanza significativo che, oltre il tema dell'articolo 18, riguarda la cassa integrazione quando cessa l'attività di un'azienda, che riguarda il controllo a distanza, che riguarda il tema dei voucher, che riguarda il tema della cancellazione delle forme di lavoro, insomma tante cose oltre a quelle che avevamo già ottenuto come PD ovviamente al Senato. Quindi insomma in realtà la riforma va avanti, per chiudere, Fabrizio Forché. La riforma va avanti perché appunto c'è un accordo che va da Sacconi a Damiano, evidentemente Renzi e Filippo Taddei, che si è occupato della mediazione, hanno fatto un buon lavoro, perché mettere insieme posizioni come quelle di Sacconi e quelle di Damiano, storicamente lontanissime, evidentemente è stato fatto un buon lavoro e dimostra che anche dal punto di vista di una sinistra certamente che deve essere di governo, il Job Act è una legge non solo, diciamo, da sostenere, ma certamente non una legge da andare a combattere con uno sciopero generale addirittura. Grazie Fabrizio Forché, buon lavoro a te. Grazie a voi. Ciao Fabrizio. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ora notizie che riguardano l'Europa. Europa 24 notte. Parliamo di un robot, si chiama Poppy, è un umanoide stampabile in 3D che chiunque potrà costruire dalle caratteristiche che vuole. Programmato dai ricercatori francesi del Flower Lab dell'INRIA, che è l'Istituto per le Scienze dell'Automazione, è stato realizzato grazie al progetto europeo Explorers e confidenziato dal Consiglio Europeo della Ricerca. How do we understand the world around us? With our brain, of course. Come comprendiamo il mondo che ci circonda? Con il nostro cervello, naturalmente, ma anche con le nostre mani. I bambini costruiscono, distruggono e assemblano per dare un senso alle forze, agli oggetti, alle persone. Per capire il principio del galleggiamento, prendono dei bastoncini di legno e li buttano a mare. Gli scienziati fanno lo stesso. Per comprendere le onde dell'oceano, costruiscono acquari giganti nei loro laboratori. Che succede se vogliamo comprendere noi stessi? Il meccanismo delle nostre emozioni, dell'apprendimento, della curiosità. A parlare Pierre Vaudeillé, inventore di Poppy, il primo robot umanoide completamente open source e stampato in 3D. Un robot che ogni bambino può costruire e programmare da solo. Poppy è alto 84 cm, pesa 3,5 kg ed è dotato di una serie di sensori, un display, due videocamere che gli consentono di muoversi negli ambienti e di interagire con gli umani. A metterlo a punto in Francia sono stati i ricercatori del Flower Lab, guidati appunto da Pierre Vaudeillé, con un progetto cofinanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca per l'Informatica. L'ente è stato istituito nel 2007 dall'Unione Europea per promuovere l'eccellenza scientifica in Europa. L'idea dei ricercatori è quella proprio di far uscire Poppy dai laboratori, farlo entrare nelle scuole. Costruire il proprio robot non è difficile, chiunque può farlo, spiega ancora lo scienziato. Un robot dotato di pensiero critico e di capacità di risoluzione dei problemi, che consentirà agli studenti di stimolare la creatività e di apprendere molte discipline, dall'informatica alla meccanica all'elettronica, e di condividere tutto questo su una piattaforma web dedicata. Here we see a baby robot that is learning and making experiments to make sense of the world around it. Qui vediamo un baby robot che sta imparando e facendo degli esperimenti per dare un senso al mondo che lo circonda. Prova le azioni, osserva gli effetti e cerca di trovare una regola alla base di queste azioni e di questi effetti. È capace di fare delle previsioni come un piccolo scienziato. Il suo corpo nasce da una stampa in 3D, mentre la sua anima è controllata da un software gratuito. L'hardware e il software di Poppy sono open space. Non esiste un unico robot umanoide, ma tanti quanti saranno i suoi utilizzatori che si incontrano in una reale piattaforma sociale. Il progetto Explores, nell'ambito del quale è stato messo a punto Poppy, è cofinanziato dal CR per un valore di 1,5 milioni di euro e si concluderà nel 2015. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. E avrei voluto più tempo per parlare del rapporto Euros sui femminicidi in Italia, poi c'è stato questo imprevisto della sentenza già arrivata sul processo Eternit, però ne voglio parlare con Fabio Piacenti, presidente di Eures, che è l'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali. Buonasera Piacenti. Buonasera. Rapporto Eures che fa un quadro veramente di un paese di grandissima inciviltà, di una cultura ancora molto arcaica. Un femminicidio avviene ogni 48 ore in Italia, quindi una donna uccisa ogni due giorni da un uomo, partner, marito, ex marito, fidanzato. Sono 179 le vittime nel 2013, con un più 14% rispetto all'anno precedente. Roma è la città più violenta, Torino è la seconda e come regioni prima viene il Lazio e poi la Lombardia. Fabio Piacenti, com'è possibile? Non siamo in Iran, non siamo in paesi del terzo o quarto mondo, non siamo in paesi integralista, eppure? Eppure i dati sugli omicidi delle donne, in particolare all'interno della sfera familiare, continuano anno dopo anno a confermare questi numeri, talvolta stabili nell'ultimo anno, in importante e preoccupante crescita, con una regolarità, diciamo, nelle forme, nelle cause, che impressiona perché evidentemente non siamo ancora riusciti a pensare, né sotto il profilo culturale né sotto il profilo della prevenzione, strumenti effettivamente adeguati alla importanza, alla centralità, alla drammaticità del fenomeno. Quindi una risposta che continua a essere inadeguata soprattutto dall'istituzione, oltre che culturalmente, ma a coloro, anche esponenti politici, anche intellettuali, che sento spesso uomini che dicono: ma quale femminicidio? Vengono uccisi uomini, vengono uccisi donne, cosa risponderebbe? Risponderei che se andiamo a vedere i dati degli ultimi 25 anni per capire il valore statistico dei fenomeni, possiamo dire che nel 1990 le donne rappresentavano appena il 10% delle vittime di omicidio. Nel 2013 abbiamo raggiunto il valore record, mai una incidenza così alta in Italia, del 35,7. Mentre i dati degli omicidi legati agli uomini sono scesi in 20 anni da 1800 ai circa 350 attuali, quelli delle donne sono rimasti assolutamente stabili. Ma la cosa, tra l'altro, è che è unilaterale, nel senso che non ragiona sul fatto che sono sempre gli uomini che uccidono le donne e non viceversa. Questo è il fatto che riesce difficile da convincere molti uomini. Piacenti, io la ringrazio, mi dispiace di avere poco tempo, d'altronde è andata così in modo imprevedibile la serata, ma i dati sono chiarissimi, lampanti, chi deve sentire, chi deve capire, capisca. Grazie intanto Piacenti, ci risentiamo. Bene, grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Noi ci sentiamo tra poco.